sento. Ma forse le cuffie. Alziamo il volume. Ciao. Ehi. Ma ci sentite? Ci sentiamo? Il volume è al massimo. Il volume è al massimo. Cominciamo a parlare. Ciao. Va bene, non ci sentiamo. Perché non ci sentiamo? Problemi tecnici. Io effettivamente non mi sentivo tanto bene. Non ci sentiamo bene. Siamo live. Ciao amici. Anche se non ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao Mary, come stai? Bene, bene. Ciao, Ciccio Cucco. Ciao. Ecco, forse tra poco ci sentiremo. Il nostro regista non ha collegato il cavo. Perché siccome con i tagli al budget. Abbiamo un regista che fa anche il tecnico. È tutta colpa della Jabax. Ora ci sentiamo. Ora mi sento. Sì. Che bel sottofondo. Ciao, buonasera. Ho gridato. C'è la cuffia alta. Okay. Un po' la cuffia alta. Ecco, allora questi primi minuti di problemi tecnici, tecnico-tattici. Sì, infatti. C'è stato un po' di suspense, non sapevamo bene se eravamo online o no. Online. Insomma, com'è andata la settimana? È una settimana che non ci vediamo. Noi in realtà sono due settimane che non ci vediamo, perché io quel giorno non c'ero, Non ci sei stata. Un poco di assistenza via internet. Non ti sentivi bene, è il caso di dirlo. Come stasera, non ci sentivo mai bene. Oh, volevo ricordare una bellissima notizia letta ieri su... dai, cominciamo. Il quotidiano della Calabria. A pagina 17, un'intera pagina dedicata a questa notizia, la polizia postale consiglia a tutti i calabresi di non spararsi seghe davanti il computer. Perché? Voi direte. Praticamente, beh, vero, sono sì, quindi la bella, mentre ci gustavamo un gelato. È proprio a tema di Cantagalli. Sì, non fai pubblicità occulta. Abbiamo trovato questo quotidiano della Calabria che non compreremo mai. Di spontanea volontà su un tavolo, e Ciccio Pupo si è messo a leggere le varie variegate notizie, tra cui questa. Scusi, ecco questa notizia. Questa notizia praticamente consiglia di non spararsi seghe o non strufilarsi la fissa davanti la webcam, perché pare che delle tanti ragazze dell'est e ragazzi dell'est adeschino signori sposati sui social network per poi dargli il contatto Skype e fare sesso cibernetico. Là lo descriveva un pochino con degli aggettivi un po' più da bambini, più cioè, colorati, tipo ti lo faceva capire, poi diceva sesso cibernetico, però ci arriva piano piano, io ce l'ho detto, no. E praticamente niente, queste ragazze poi che fanno? Registrano, ragazze e ragazzi, perché anche le donne sono coinvolte, registrano e mettono il video su YouTube mandando il link al diretto interessato, dicendogli che se non pagano 750 euro, però sono modesti, daranno il link a tutti i suoi contatti di Facebook. E la gente sposata e fidanzata paga per non far vedere alla moglie o al fidanzato o alla fidanzata che si strafulla il gingillo. Come, scusa? Si strafulla il gingillo. C'era scritto così proprio sul davanti articolo. A una webcam mentre guarda una che magari si tocca una minna. Purtroppo nel XXI secolo più 15 abbiamo questi problemi che derivano appunto da i ragazzini ormai capire questo. Comunque, notizia vera, pagina 17 quotidiana della Calabria di ieri. Va bene, anche la pagina ti ricordi? Sì, perché a fianco io stavo leggendo ovviamente un articolo sulla guerra di mafia e poi c'era anche questo. È perché qui a Ciotia dell'Etere noi mandiamo solo notizione serie sì. Vere, reali. Non avremmo mai potuto mandare una notizia su, che ne so, la guerra di mafia. No, assolutamente. A parte tipo fissiare un pochino sul nostro amico nero fascistello alemanno Giannuzzi. Ah sì, ma raccontami un poco per Giannuzzi. Raccontami un po' perché non sto seguendo tantissimi giornali. praticamente hanno arrestato Massimo Carminati, che sarebbe il boss della capitale, diciamo, un boss mafioso. E diciamo, come seguito di questo arresto sono stati indagati altri, non mi ricordo se sì, sono centinaia gli indagati e decine gli arrestati. Tra gli indagati c'è il nostro amico Gianni Alemanno, il nostro amico Giannuzzo. E che cosa avrebbe fatto esattamente Gianni? Gianni, sei ottimista. Gianni, io sono ottimista. L'accusa di associazione a delinquere è stampo, a delinquere è stampo mafioso. Ah, bene, capito. Cioè, cosa ne pensi di questa cosa? Gianni, avresti mai detto che Gianni era un mafioso? No. Oltre ad essere un picchiatore. Ma no, io non ci credo a queste cose. C'era anche Poletti o quella gente. Ma sì. Chi è questo Poletti? Che Luca Mangio. Mangio! Ma quello, no, quello è il direttore, però ci sto mito. E Gianni Alemanno dice: chi mi conosce sa bene che organizzazioni mafiose e criminali di ogni genere io le ho sempre combattute a viso aperto e senza indulgenza. Come? Come regista? Io ve l'avevo detto. Voi ridevate. Voi ridevate. Sempre il nostro amico Fascio Alemanno dice che dimostrerà la sua totale estraneità ad ogni addebito a questa incredibile vicenda e dice che ne uscirà a testa alta. È ammanalzata. Vabbè, quella non l'ha mai abbassata. Infatti su un sapete chi è Gianni Alemanno, sì? No, chi è? Cioè sì, sappiamo che è il sindaco di Roma. Fino a qua ci siamo arrivati. Che l'ex sindaco sta picchiatore. Infatti lui praticamente è stato uno studente modello e cultore. Scusa, vai. Le mie colleghe e il web, è a pagina 13. Pagina 13. Dopo il sesso online, c'è stata una rettifica. Catanzaro, la polizia postale prova a fare luce su un giro di estorsioni via web. Bella. Sì. È scaduto il tempo. Non può più leggere il quotidiano della Calabria. È un giornale a tempo. Insomma, allora, praticamente di Alemanno chi è? Guarda, Benito Mussolini parla di Alemanno dicendo: Alemanno non è un fascista, è un fascistello semmai. È uno un piccolo fascista, un po' mafioso. Sì. Un fascistello mafiosello. Sì, praticamente lui, Benito Amilcare Andrea Adolfo Gianni Alemanno, detto anche Paperino, Aledanno, Lupomanno, Erfurer, è un politico italiano. Podestà di Roma. È un politico italiano? Sì. E dopo le elezioni del 2008 diventa duce. Lo sapevi? No, non sapevo che era diventato duce addirittura. Ma chi? Sì. Ma stiamo parlando troppo seriamente. Benito Amilcare Andrea Adolfo Gianni Alemanno. Hai capito di chi stiamo parlando? Sì. Dici che Gasparri svegli i pugnetti davanti a fumo porno a vicenda. Come dici? Con Gasparri si fanno le pugnette davanti a un porno a vicenda. Ma gliel'hai detto che la polizia postale sconsiglia queste pratiche? No, davanti ai film, capito? Loro si mettono nudi davanti al film. Uno tiene in mano il gioiellino dell'altro, uno quello dell'altro. No! Ma ci sono notizie di Gasparri? Cioè, sì, col suo sperma poi ci fanno le colle per i manifesti. Cosa? Col suo sperma ci fanno le colle nei manifesti durante le campagne elettorali. Bene. Comunque in Ucraina c'è un nuovo incidente in una centrale nucleare. Ogni tanto fa piacere sapere queste notizie. Perché proprio, cioè, questa notizia? Così? Cosa seria. Ci stiamo prendendo una piega troppo seria. Parliamo di cose ancora più serie. Parliamo di Salvini. Parliamo di Salvini. Come avete potuto notare sulla nostra bacheca dell'evento c'è una foto di lui molto molto hot. Dici che l'hanno presa quelle di Catanzaro perché stava facendo le pugnette con una dell'Est e gli hanno chiesto 150 euro, e è successo quello che è successo. Insomma, che ci vuoi dire di Salvini nudo? Cioè, come l'hai presa? Abbiamo capito finalmente Figlioli. Abbiamo capito finalmente per quale motivo ce l'ha tanto con i neri. Sì. insomma. Invidioso. Ma lo sapete che Salvini si insomma, oltre a posare nudo su Oggi, a Salvini piace molto andare in discoteca in Francia, sulla Costa Azzurra, insieme a Marie Le Pen. E dici che Marie Le Pen, insomma, gli piace un sacco Salvini. Ma voi lo sapevate che a Salvini piace la zucchina lunga? Ah, quindi non a Salvini non piace Marie Le Pen, mi dispiace. A Marie Le Pen non piace Salvini. A Marie Le Pen non piace Salvini, sicuro. Ma si sono trovati bene, perché in realtà a Marie Le Pen gli piacciono le femmine e a Salvini gli piacciono i maschi. Ah, tu dici che sono... Però quindi quello si sente maschio, quella femmina, quindi capito, hanno invertito i ruoli. La famiglia tradizionale l'hanno comunque fatta. Però, capito, invertito i ruoli. Sì. Sì, dici che Salvini proprio la Le Pen gli il fascio littorio e ce lo zacca nel culetto proprio... Ma sul senza olio di sbrigno, visto che quest'anno l'olio di sbrigno è molto caro. Olio di sbrigno? Sì. Cosa sarebbe l'olio di sbrigno? Quello per tecnicamente chiamasi olio di sbrigno, anche olio necchio, olio Olivetti, quello dell'Olivetti Olivetti, l'olio che serve per sbrignare le cose che si ingeppano. Okay. Olio di sbrigno. Olio di sbrigno, nuovo prodotto. L'olio industriale. Ciao Paletto, un passante che passava e se salutava e se ne andava. Che passante, beh, ma insomma lo sa. Ah, è giusto, perché oltre insomma ad aver trovato Salvini nudo sul web in questi giorni, che è stata diciamo un'esperienza abbastanza traumatica. E la chat gliela fatta padrona, perché? Sì, perché su internet potete... Sull'internet? Sull'internet potete agevolmente trovare, nel caso in cui, insomma, che ne so, non avete Twitter o Facebook o non vi va di seguire Salvini su Twitter o su Facebook, anche se io ve lo consiglio vivamente, insomma, perché è un piscio. È un, insomma, dice un sacco di stronzate. E, insomma... sì, sull'internet potete trovare un generatore automatico di post di Salvini. Marina, ci vuoi leggere qualche... Sì, ricordiamo il sito dove si può trovare. gensav.altervista.org. Sì, appunto, org. E praticamente tipo cliccando l'apposito tasto genera un altro post, puoi trovare i suoi post. Ad esempio, e cito... Un gruppetto di immigrati ha letteralmente messo a fuoco tutti gli averi delle vittime dell'alluvione. Da rinchiudere, o no? Oppure il governo ha abolito le luci al neon di colore viola. Vergogna! Non è che i posti di Salvini, quelli reali, siano tanto differenti, voglio no, dire. No, assolutamente. No, no, anzi, vogliamo leggere qualcuno. Stamattina il Partito Democratico ha deciso di rendere illegali i tostapane doppi. Davvero no comment. E questa sarebbe democrazia? Per esempio, io Matteo dico... Salvini ruba ramen in campo di zingari per lasciarli al buio. O inaugura i giochi con frontiere. Ma a parte questo, guardate che i posti di Salvini, quelli su Twitter, sono più ridicoli che quelli. Ad esempio, scrive: domani sarò a Bruxelles in commissione per difendere il Made in Italy. No? Che l'Europa sta massacrando, questo è ridicolo, dai, oggettivamente. Sì, dai. Non è stato nemmeno generato automaticamente. Infatti lui si è messo nudo proprio per far capire che... Ma lo sapete che ha ricevuto un sacco di critiche? Ad esempio è stato criticato da niente poco di meno che la Boschi. Veramente. Ah, mio Dio. niente. È questo. Mandiamo un pezzo. A proposito, ieri notte un barcone di vandali ha fatto a pezzi i numeri infiniti. Però io dovrei lamentarmi di queste cose, se no sono un provocatore. Ma stiamo scherzando? Ma non scherziamo. Manda un pezzo. Ho fatto fricchettone a botte de trioche e me so de virtut che colline francesi, ma mo so pendito e con le turisme ne asce e da fa un fricchettone non ne voglio più sapere, non ne voglio più sapere, da fa un fricchettone e da fa un fricchettone non ne voglio più sape, guagliò! Aia vige so shoot, bufum si accata. E a cuta ci so dit, non te pozze paga. Iede me veglia scaf, dammi le letteris. E vattine da do, ce no way, e sa ci sto. Non ne voglio più sapere. Hey, play, non è? De fau frichettone, e de fau frichettone. Non ne voglio più sapere. Sua sud dalla palda, vindeme la rire. E ho cornuto che kid, fattine da o barbire. Le terrise so picche, però face not. L'ultimo bene la madame ci va frega tu. Non ne voglio più sapere. Da pau frichetto, e da pau frichettone. Non ne voglio più sapere. Centro sociale, sono un muestro scattato. La campagna addorme, tu le vide scettate. La destra vin giù, e non c'è sta macchia andare. E un fumo dalla capa, c'è pace stata. Non ne voglio più sapere. De fa un fricchetto, e de fa un fricchetto. Non ne voglio più sapere. Poi asciate zua da mamma e da tata, perché loro sicuro roba buona mannata. Al pettuccio Fabini, una tazza di tè. E da fa un fricchetto, non ne voglio sapere. Non ne voglio più sapere. Da fa un fricchetto, e da fa un fricchetto. Non ne voglio più sapere. Non ne voglio più sapere. Del fa un fricchettone, e del fa un fricchettone. Non ne voglio più sapere. Why you? Oh, why you? Che canzone era, Mary? Questa era un fricchettone. Dei folca bestia. Oh raga, ci arriva una domanda da Facebook. Aspetta, fammi sapere. Fammi dire una cosa. Questo brano perché l'abbiamo scelto? Perché ieri Ciccio Pù, Bella Spi, c'ha il nostro amico Bella Spi, ci ha confidato che lui odia i fricchettoni. Ah sì. Cioè, scusatemi. Ciao, caro Vita. Ciao, in che senso? Con Bella Spi devi vedere. Bella Spi è Fabrizio. No, perché Fabrizio il chitarrista dei Sex and Helvetic System, che Bella si esibiranno il 12 dicembre, proprio qui, in occasione del Festival di Fuori Onda Radio, proprio in P2. Cioè, io pensavo che in quest'aula comunque giravano, siccome sono su un luogo comunque socialmente riprodotto, pensavo che comunque qui sì, ci fossero più fricchettoni, non persone che odiano i fricchettoni. Cioè, hai capito che cosa ti voglio dire? Sì, no, ho capito. Cioè, ad esempio, ieri in quest'università sono stata ad un bellissimo evento fricchettoni, di noi fricchettoni, in cui tra l'altro questo, devo essere sincera, non è un termine che apprezzo molto, sono contraria. Sì. Non ti riconosci come fricchettona? Non, cioè, a me non piace categorizzare le persone in insomma in categorie metafisiche, spazio, coscienziali. Sì, ti capiamo proprio bene. Sì, infatti. E pensavo che comunque si potevano organizzare degli eventi anche qui. Ma a voi fricchettoni non piace proprio la parola evento. Piace più tipo, che ne so, Un incontro. Comunione. Ok. Sì, noi preferiamo nella nostra comunità. Noi facciamo un sacco di incontri in comunione, in condivisione. Fricchetto, è il tuo cazzo. Amaro. Quindi la domanda, Ciccio? Così. Allora, girando girando su internet, leggendo delle mie varie cose di cui mi interesso, sul fidanzato di merda ci pongono una domanda a cui prego tutti di rispondere. Una persona risponde, chiede: farsi praticare del sesso orale da una persona mentre si è imbignati con un'altra non è un vero tradimento, vero? Rispondiamo a questo sondaggine che lanciamo il sondaggine. Sì, e poi volevo appunto, un'altra persona dice: il fidanzato di merda non è il mio, che fortuna, ma è quello che ha tradito la sua ragazza con me. Allora a questo punto ci chiediamo: quindi tu sei la fidanzata di merda? La merda. Quindi a Chiaropita che ne pensi di questo, diciamo, sesso orale, tradimento? Tu lanciami i sondaggini a te. Io sono contro, assolutamente contro, perché ritengo che comunque si tratta dell'uccisione degli spermatozoi in qualunque caso. Ah, ok, quindi sono forme di vita che noi dobbiamo assolutamente rispettare. Ah, ok, quindi tu sei contro il sesso orale, contro il tradimento a prescindere, perché comunque no, ma che il tradimento, come lo vedi il tradimento? No, noi nella nostra comunità comunque noi abbracciamo. Non esiste il tradimento nella nostra amicuzza. Un bel amico moneta qua a Berlino Est, benedica. Bentornata, signora Micuzza. Volo della quaglia, una mutifaca. Praticamente, siccome. Il volo della quaglia, cos'è tecnicamente il volo della quaglia? Allora, praticamente, visto quando stai. Anche detto salto della quaglia. Sì, perché la quaglia non vola, in effetti. Ma noi comunisti facciamo volare anche le quaglie. Niente, praticamente che succede? Quando c'era lui, che non è Mussolini, non ma è Stalin. Lui italiano, sì. È lui, del Patto di Varsavia. Che succedeva? E praticamente dovevamo fare l'amore, no? Sì. E avevamo visto gli americani Yankee di merda, che... Ma i Yankee bianchi? I Yankee bianchi, neri, quello che era. I neri lo potevano usare. Scusa, signora Micuzza, può propinquare questi bicchieri per la birra? Prego, dottoressa. Grazie. Praticamente, che succedeva? Abbiamo provato ad imitare il condom, solo che noi non avevamo nella nostra grande patto di Varsavia il lattice, e allora avevamo però la gomma di scarto dei carri armati. Il condom, anche detto palloncino. Brava. Però il nostro non si gonfiava perché era fatto con i gomme dei carri armati. Era un condom che ti fa, se eri bianco o cinese, te lo mettevi e diventavi un nero, perché era sia nero che grande, capito? Ah, era spesso. Sì, però non sentivi niente. Allora abbiamo usato il volo della quaglia, che abbiamo brevettato noi. Grazie. Sì. Perché è come se sparassi a salve. Nel senso che quando senti che ti sta per arrivare... Ma proprio figuratamente, ce lo spiega. Allora, quando senti che stai per venire, esci fuori e vieni fuori. E sporchi il tovaglio, i letti, tutto. Se lo raccogli in un bicchiere, però, puoi fare la colla. Così i bambini a scuola possono incollare il collage. Come fa Coso, Gasparri? Sì. Per i manifesti. Sì. Infatti Gasparri era comunista. Ma lei che è donna vissuta... Sa queste cose proprio per diretta esperienza. Sì, figli, usa. Mi ne ha avuto bene pigliato sperma in i piedi, capo, non sapeva David lanciare un po' in i piedi, ma vedi me. Mamma mia. Grazie. Scena proprio puzza, per averci. Come dica una cosa, da sceni panico. Quando invece finalmente abbiamo visto i condom americani di contrabbando, perché noi sai, il nostro contrabbando c'erano anche questi. Finalmente abbiamo iniziato a vedere questi condom e la popolazione è cresciuta. Perché secondo me è più sicuro il volo della quaglia. Bene. Detto ciò, ragazzi. Intanto sulla nostra pagina Facebook Andrea o Flavia hanno condiviso l'immagine di Nunzio Scalercio. Che cos'è questo? Il comune? Che cos'è? Allora, ragazzi, tutti voi di certo. È da un po' di tempo che da un po' di tempo vi stavate chiedendo quest'anno come ci sorprenderà il nostro Mario ci pensa Mario è meglio quest'anno. Mario a Mario che se si rompe la panchina la fa di cemento. No, a parte ma questo, Mario... Che Mario le panchine le fa di cemento armato, ragazzi. Se vi fate un giro per Corso Mazzini, noterete a Mario, che se si brucia il lampione ce lo mette in plastica. Mario. Stavo dicendo una cosa, signora. Insomma, stavo dicendo. Stavo dicendo, tutti voi vi stavate chiedendo, più scusa, possiamo aprire un sondaggini, però sì, ormai lo possiamo anche chiudere perché ormai, insomma, il mister è svelato. Dove quest'anno il nostro amico Mario, come ci sorprenderà quest'anno? Ci sorprenderà, dove metterà i famosissimi cerchi di Natale. Come si dice a Cosenza? Come li chiamate a Cosenza? Scusa, come li chiamate a Cosenza? Cerchi. I famosi cerchi, tutti ce lo stavamo chiedendo dove verranno messi, perché insomma parliamo un pochino del percorso che hanno avuto questi cerchi. Ce li siamo ritrovati, mi ricordo, nel Natale del 2010, se non sì, vado errato. Quattro anni or sono. Aspetta, lui è andato in carica il 2011. No, era Natale 2010. No, lui è andato in carica il 2011. Era Natale 2011. Va bene. Nel voi non potete vedere la faccia convinta di Ciccio Pupo. Questa affermazione. Per fare il posaggio. Un po' d'acqua. Sì. 3 anni or sono, quindi sì. Sono apparsi questi famosissimi cerchi e sono stati appesi, insomma, su Piazza Vera, che ad oggi invece sta per diventare un bellissimo parcheggio sotterraneo. L'ex Piazza Fera, ora si chiama Piazza Bilotti. Una piscina, una piscina, esattamente, perché c'è un buco enorme. E in sostanza sono apparsi questi bellissimi cerchi che all'epoca, insomma, sembravano una grande innovazione. Insomma, potevamo immaginarci che in realtà non erano semplicemente presi in affitto, bensì comprati dal comune di Cosenza. Grandissimo investimento del comune di Cosenza. Belli esordi. Sì. Infatti si è pentito e poi l'ha il sindaco Maruzzu si è pentito e poi l'ha riutilizzati, perché comunque la spesa che aveva fatto era stata abissata. Voi lamentate solamente, sapete solo lamentarvi, non vi ho detto la bellezza di questa opera, perché noi siamo una città smart. E cosa vuol dire smart? Vuol dire che noi non buttiamo via niente. Steve Cartouf è un grande detto di Cosenza. Ma lei è proprio lei? No, non sono io. Io sono uno che parla come nome suo. Sono un suo caro amico. Un amico di Maruzzi, sì, un amico degli amici. Sono un amico degli amici, invece sono l'ex ministro Clini. Ah. Sì, mia moglie ci è andata a letto e poi l'ha fatta assessore. Però a me non mi dà fastidio, perché credo che solo un bambino può essere vesto come tradimento. Il resto no. Ok. Insomma, quindi poi il percorso, insomma, poi questi cerchi sono ma stavo dicendo una cosa seria. Anche noi un'ora che stiamo cercando. No, voi non vedete la grande cosa. Siccome nell'isola ecologica di Cosenza non c'è posto per questi cerchi, allora il sindaco non li può buttare nella spazzatura, perché se no non glieli raccolgono e gli fanno la multa. Allora lui poi si ingegna su dove andarli a posizionare. È un po' come l'Eternit, no? Lo mettiamo nei treni e lo facciamo viaggiare per l'Italia. Ah, l'Eternit. L'Eternit. Lo mettiamo nei treni, lo facciamo viaggiare. Sì, non l'avete mai visto nelle stazioni i treni piombati? Quelli sono pieni di Eternit. La prossima pubblicità di Trenitalia sarà questa. L'Eternit viaggia con noi. Insomma, ragazzi, poi, io stavo dicendo che così come l'Eternit viaggia con noi, anche i cerchi hanno viaggiato con noi e li abbiamo ritrovati per il centro storico durante le invasioni. Corso Mazzini, sul lungo fiume, durante il lungo fiume Boulevard. E quest'anno che succede? Secondo Maruzzi? Voi dove ha potuto mettere Maruzzi i famosissimi cerchi? Ormai l'unico posto che ormai era rimasto vergine, intatto, inesplorato. Dove? Artisticamente inesplorato. Sulla facciata del comune. Ebbene sì. Già, diciamo, come facciata molto, come dire, critica, molto molto brutta, molto schifosa. E Maruzzo ha deciso che ci imbaccia dai cerchi. Esattamente. proprio così. E Maruzzo ha deciso, quindi se voi questa sera, insomma, vi trovate a passeggiare per Corso Mazzini, non solo troverete delle fantastiche panchine di cemento armato, perché noi il cemento, insomma, non sappiamo dove metterlo prima, ma anche uno strepitoso una strepitosa facciata di luci, esatto, una strepitosa facciata del comune illuminata di cerchi, che meraviglia. E insomma, è così, insomma, abbiamo svelato il mistero dell'anno, dove saranno messi i cerchi. Ma in chissà in the there dove come se apprezzano la forma del cerchio, se usano queste luminarie di Natale. No. No, perché è grigio, la the there è grigia. No, non capisci. No, ok. Noi, che non capiamo. Noi queste cose non le possiamo fare. Perché? Perché noi non abbiamo il Natale. Ah, ci scusi, signorina. Il Grinch gli ha rubato il Natale alla the there. No, ce l'ha rubato Stalin. Ah, ok. Dalla regia reclamano la birra. su questa uscita, secondo me, possiamo anche mettere un pezzo. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un pezzo pietoso. Metti un pezzo. Un pezzo bello togo. Sì. Proviamo questi power rillosi. Vai. Siamo venuti a registrare il primo singolo, ma qui e c'è chi dice adesso fate il lato B. Ma noi pieni di entusiasmo abbiamo scritto solo un pezzo, e chi ci ha più pensato anche al lato B. Lato B, lato B, lato B, oh lato B. Presto qui c'è un posto fuori un lato B. Si potrebbe per esempio fare un gioco con il mondo e scoprire tutti quanti i lati B. La metafora non è così difficile per chi sa che sono inferiori i lati B. Lato B, lato B, lato B, oh lato B. Quando tu di un altro non sei il lato B. Lato B, lato B, lato B, oh lato B. Donna tu dell'uomo non sei il lato B. Lato B, lato B, lato B, oh lato B. Siamo qui in ansia, lato B. 10 piatti di spaghetti, la natura un sì. A 10 persone che hanno fame, lato B. 8 piatti se li palpano, 2 tizi qui del nord. E 3 piatti avanzano, però bom, bom, del sud. Lato B, lato B, lato B. Bimbo tu del mondo non sei lato B. Lato B, lato B, vecchio tu del tempo non sei lato B. Lato B, lato B, lato B. Grado tu di un gran nome non sei lato B. Pom pom pom pom. Pom, pom, pom. Interrompiamo le comunicazioni radio per un annuncio del Ministero della Pubblica Salute. Pubblica Salute. Tranquilli tutti. Sì. È in arrivo il vaccino contro i vaccini. Wow. Ditelo a Vespa che Lorenzin fa questo per te. Dovresti dire a Vespa che giusto l'altro giorno ha provato il vaccino in diretta. Adesso proverà il vaccino contro il vaccino. Giustamente. Per vedere. E dici che questo vaccino contro il vaccino, se muori di vaccino, ti fai questo vaccino, risurgiti. Risorgiti. Gurgiti. E infatti no. Il Vaticano si oppone, perché viene meno questo mistero della risurrezione di Gesù. Perché se questo è vero, si viene a scoprire che i romani in realtà lo volevano tanto vaccinare contro l'influenza che in quel periodo là nella terra di Palestina andava a dualire. E allora che cosa hanno fatto? Gli hanno messo il vaccino, poi stava a morire, era morto, no? Però era soltanto agonizzante in realtà, dici che era morto ma non morto, un morto non morto come un senso non senso. Allora che succede? È arrivata la Madonna con i 12 apostoli, hanno detto la Lorenzin ci ha dato questa cosa, proviamo, tanto è morto, no? E gli hanno fatto questa puntura quasi sadicamente, dicendo ah vaffanculo, ed è risurgitato. È risurgitato. Allora che quando l'ha visto risurgitare, Pietro ha detto oh mio Dio, scappo, e si è messo a correre, perché lui gli aveva fatto la puntura, perché il paio però cominava, ed è arrivato prima a Costantinopoli, dove però ha detto forse mi pigliano, e allora è arrivato a Roma, dove ha fondato la sua chiesa su una pietra che in realtà l'aveva in mano, se l'ha portata alla Palestina, perché dici se mi piglia come i cani, no, fa finta che ci tira a petto e che li si infuriano, capito? Perché tutta la storia è nata su questo. Signora Pina, lei ha fatto il vaccino? A me un mo fanno vaccino. Perché? Dicono che un mo posso fare. Dacci un medico mio che il cazzo dice. Però insomma mi sa che non io nichissima a quazzo. Sa cazzo influenza. No, signora Bina, non sia così negativa. Figli, cioè, ogni anno è sempre peggio, si capisce a niente. A proposito di vaccini e di risurgitazioni. Praticamente è una notizia dell'ultima ora di una nota agenzia di cui noi insomma facciamo largo uso delle notizie. Ah. Praticamente Gesù ha provato a resuscitare di nuovo Lazzaro, solo che è andata storta perché a risurgitare di nuovo. Scusate. E praticamente è andata storta perché coso là, come si chiama, Lazzaro si è svegliato zombie, e quindi mo dovrebbero inventare un nuovo vaccino per lo zombifili, come si chiama, zombie Walking Dead. Ma tutto questo insomma, comunque abbiamo anche una bellissima notizia dal mondo scientifico che finalmente apre la luce su Dawson Creek. Praticamente dici che come fai a capire se uno si fa le seghe mentali? Perché si dice, ti stai facendo le seghe mentali? No, non è vero, sì, ti stai facendo le seghe mentali. No, non è vero. Allora, che succede? Durante i campionati mondiali di seghe mentali si è vinto che i partecipanti soffiavano il naso. Allora uno scienziato l'ha seduto che è alla terza media ha detto, minchia, ho capito tutto. Praticamente quando ti fai una sega mentale ti esce il muco, che sarebbe l'eiaculazione della sega mentale, perché quando ti fai una sega al pene ti esce lo sperma, e là invece ti esce il muco. Quindi state attenti, se voi volete dimostrare che io sto facendo una sega mentale, gli dite ti stai soffiando il naso, quindi vuol dire che stai venendo, e quindi è scoperto finalmente questo arcano. Ma poi questo scienziato ha vinto il Nobel? Sì, gli hanno il premio mobile sì. Il premio nobile, il premio Oscar e lo sapete come si fa un auto pompino mentale? Non penso. No grazie, possiamo ho dato un esempio. Abbiamo un clip audio sì. Chiamato anche il risucchio. Ma a proposito di risucchio, un fazzoletto automatico. A proposito mi cola il naso, non posso farlo uscire, lo metto dentro. Ok, abbiamo capito. Quando cos'è che entra duro ed esce morbido? Altro che Marilyn Manson con l'autorisucchio. Il biscotto. La pasta, non lo so. Ma a proposito di risurgitazioni, sì? Voi ricordate insomma il famosissimo romanzo di Mary Shelley, nonché anche penso ci sia stata più di una trasposizione Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no, Frankenstein, ecco. Come ricordate il dottor Frankenstein che faceva, andava a prendere pezzi, trafugava pezzi di corpi nel cervelli umani per ricomporre, insomma, per giocare a fare Dio e comporre questa creatura e insomma dargli la vita, resuscitarlo. Ecco, poi è solo un romanzo. In realtà la nostra cara agenzia Ansia l'ansia pare che ci dice che pare che in USA siano stati trafugati 100 cervelli umani all'università di Austin. Ora era una collezione donata all'università di Austin, una collezione di cervelli. E niente, in pratica tutti questi 100 cervelli che erano stati donati all'università del Texas sono stati, erano conservati in barattoli di formaldeide e si pare siano stati trafugati, anche se insomma Ed è riportata pure, diciamo, una nel comunicato stampa dato dall'università. Leggi cosa. Pensiamo che qualcuno li abbia presi, ma non possiamo dirlo con certezza. No, ma no. Insomma, voglio dire, trapare che tra i cervelli scomparsi ci fosse anche quello di un serial killer che nel 66 uccise 16 studenti. Quindi, a proposito di risuscitazioni, state attenti nel caso in cui, insomma, vi troviate in Texas. Ma 100 cervelli penso che ce ne sono di creature da comporre. Sì. Quindi nel caso in cui vi troviate per strada e vedete qualche creatura risuscitata, sicuramente è perché gli hanno messo un bel cervello abnorme. Comunque volevo qualcosa. Continuare sulla scia delle invenzioni e dei nostri cari scienziati. Quindi abbiamo pure la rubrica tecnologica del Minch. Praticamente i nuovi scienziati del Minch hanno scoperto, hanno fatto fare delle prove sperimentali su 100 studenti che in cambio di una dose di cocaina al giorno postavano nudi per questo esperimento, perché non capivano pure quelli del Minch. Allora, hanno scoperto che hanno fatto questa prova, hanno mandato uno studente a dormire vestito per fargli risparmiare tempo la mattina per andare all'università. Solo che lo studente si è cambiato la mattina ed è andato a scuola in pigiama. Perché capito questo coso, e quindi hanno dimostrato che mettersi pigiama la sera fa mettere i vestiti la mattina. Se la sera non ti metti il pigiama, la mattina non ti metti i vestiti. Se vai a dormire nudo rischi di uscire in mutande. E invece, sempre da notizie tecnologiche dallo spazio, abbiamo visto che praticamente si è portata la tuta lunare da jogging l'italiana nella stazione orbitante, e che quando gli hanno chiesto i suoi colleghi perché avesse fatto questo gesto, ha risposto una risposta molto interessante, ha detto: prima di andare scappo via per evitare di andare da Fazio. A porta a porta. Sono un po' confusa, le tue notizie mi lasciano sempre esterrefatta. Non le seguo molto bene. Non è che quasi fossi picchettone pure tu? No, non sia mai. Torna a casa e scopre la moglie a letto con suo amico immaginario. Ma a proposito di fricchettoni, ah no, niente, così. No, dici. Fricchettoni, cosa ne pensa secondo voi Acheropita? Glielo possiamo chiedere. Acherò. Scusami, di cosa stiamo parlando? Cosa rispondi ad Andrea? Cosa rispondi ad Andrea circa le cose? Circa le cose di cui stiamo parlando, i nuovi. Delle mutande? Sì. A me e la nostra comunità mi piacciono moltissimo andare in giro a nuota. Le mutande noi non le siamo perché siamo d'accordo. Perché non siete d'accordo? Siete contrari? Le mutande sono un'invenzione. Fanno poco freak. Sì. Ok. Ma è come la mettiamo con la giannina che binge nei peli e li tira? Noi non siamo d'accordo con le giarniere, utilizziamo solo pantaloni con gli elastici o giriamo nudi. Ah, ho capito. Sono più comodo. E se dici senza canuca la buona è già fissa, boh? Come la metti? Violenza verbale. Se una zanzara ti morde il clitoride, poi? Penso che anche rapido. Quando ti gratti vieni. Penso che Acheropita dica che è sempre una cosa della natura, o no, Acheropita? Comunque la zanzara è un essere vivente, è come dare a diritto posto di provare piacere, cioè nel momento in cui la zanzara e Dio veniamo a contatto, è inevitabile che sento due creature. Proviamo piacere nel stare a contatto l'un l'altro. Io non capisco questa lingua fricchettona. Perché devono parlare lenti? Perché devono... Non basta, mi avete rotto il cazzo. Questa è. E insomma, ma tipo mandiamo un pezzo? Mandiamo un pezzo. Coglioniamo altri 5. Allora, io volevo che facciamo tutte le serie, dimmi. Io volevo parlarvi, ultimamente il presidente del Consiglio è stato contestato dappertutto, ogni dove. Qualunque porto o città sia arrivato è stato... Oddio. Oddio, che immagine. Praticamente sul Job Act ci sono delle novità. Quindi il lavoro praticamente dopo questi problemi che ha avuto, queste contestazioni, ha deciso di presentare un nuovo atto di lavoro, ovvero lo Steve Jobs Act. Addirittura? Sì. Praticamente, consiste? Praticamente è stato presentato stamattina. Questa riforma del lavoro è ispirata al fondatore dell'Apple e al faraone Akhenaton. Praticamente la norma prevede la sostituzione dell'assegno di disoccupazione con uno smartphone di fascia media, mentre la cassa integrazione sarà sostituita con un tablet zeppo di giochini. Il governo dice che la legge va incontro alle esigenze di chi resta senza lavoro, permetterà ai disoccupati di poter cazzeggiare liberamente durante i periodi di inattività senza perdere così le abitudini in ufficio. E il ministro del lavoro nominerà una task force che organizzerà tornei di razzo, gruppi su WhatsApp, permettendo a chi resta senza occupazione di filtrare gratis dalle 8.30 alle 17. Sono stati anche introdotti degli stage a tutele crescenti. Praticamente gli stagisti dal 2015 dovranno pagare i propri schiavisti soltanto per i primi 6 mesi, mentre lo stage gratuito diventa a tempo determinato soltanto dopo il primo anno. Ma cos'è uno stage? Uno stage è un tirocinio. Ma un tirocinio per fare cosa? Un tirocinio per lavorare in azienda o... Che cosa fai? Che cosa fai? Non fai niente, praticamente vieni sottopagato. Fai tutto tu e ti pagano quanto uno che non fa un cazzo. Tipo stipendi proprio ridicoli. No, allora mi pagano assai. Cioè voglio fare il coso. Quindi tu sei d'accordo con me? Certo, ti immagini mi danno lo stipendio di uno che non fa un cazzo. Magari. Ok. Magari. Però fai tutto tu. No, non faccio un cazzo. No, fai tutto tu, ma non fai un cazzo. Cioè, ti pagano come quello che non fa un cazzo. E allora non faccio un cazzo, così a me mi pagano come quello che non fa un cazzo. Appunto, per questo è stato fatto il Steve Jobs Act. Steve Jobs Act? Sì. Ecco, sì, cosa sì, funziona. Praticamente, si piega. Te lo stavo dicendo. Ho capito cos'è Steve Jobs Act. Ti insegnano tipo a sciare, no? È il presente quando sci che ti pieghi di un lato e di un altro per evitare i cazzi in culo quando ti arrivano. Ti alleni e non prendi. Per le prossime Olimpiadi invernali. Non lo prendi. Ok. Quindi lo Steve Jobs Act prevede che il numero di forme contrattuali viene ridotto. Passano dalle 42 attuali a 4. Ci saranno infatti solamente 4 contratti disponibili. 4 fortunati che verranno assunti dovranno pagare da bere a tutti i 30 milioni di disoccupati. Questo è lo Steve Jobs Act. Quindi, se siete d'accordo, è Togo. Lo Steve Jobs. Sì. E con questo nuovo assetto di governo possiamo mandare il pezzo? Sì, anche se io ho dei seri problemi a dire Jobs. Jobs. Sì, sì. Mandiamo un Jobs. Pezzo. È un classico. Jobs. Jobs. Jobs. Il meglio di uomo. Andiamo allora? Vai, pezza. Pezza? Che pezzo mandi? Della mia generazione, che siete cresciuti coi cartoni giapponesi. Voi mi dovete spiegare perché in quei cartoni non si vede mai trovare solo l'uomo che fa la guerra. d'acciaio, Gippa, protetto d'acciaio, l'uccello di un ragazzo che senza paura sempre resterà. Dallo spazio arriverà uno che nel dietro ti darà, così quando meno te l'aspetti sentirai. Sentirai un razzo missile che si infila tra le tue valvole, tra gli ingranaggi spritta. No, non è un furbo. Ciccio Puma. L'astrocazzo di Gundam, questo. Ma la signora Micuzza ha sentito dei preservativi d'acciaio della di Heidi? Eh? Nella canzone, non l'ha sentita la canzone, signora Micuzza? Poveretta. Poveretta. D'acciaio? D'acciaio. Erano comunque li producevamo noi. Noi sì, no, l'acciaio viene dalla grande regione della Cecoslovacchia. Quindi siete fieri. Papà, stamattina il prete ha fatto una pipì bianca sul viso della maestra. Un bambino che frequenta le elementari delle suore. Grazie a lui sono entrato in politica. Mara Carfagna su un pompino. È chiaramente cannibalismo. Un cattolico praticante. Vegetariano. Scusa, di cosa stiamo parlando? Bambini! Blowjob! Bene, il trash. Il pompino è una tecnica di mungitura dell'animale uomo, utilizzata dalle donne e dagli uomini gay per bere alla fonte, l'elisir della giovinezza, è il segreto della loro bellezza. Per questo motivo, sempre più ragazze giovani hanno iniziato a praticare quest'arte, in modo da mantenere fin da subito la loro bellezza e i denti bianchi. Sì. No, bene, grazie per averci, insomma. Il 26 maggio è un giorno che entrerà nella storia. Sapevo che non dovevo cominciare a parlare. Una ferocità di donne si è riversata per le strade assalendo qualsiasi essere vivente dotato di pene, cioè anche animali. È stato un raro evento di democrazia e abbattimento della discriminazione razziale e sessiste, in cui tutto il genere maschile, senza distinzione di età, colore della pelle, professione, lunghezza del pene, venne spombinato a dovere. Io aggiungere qualcosa? Non dico niente. Non dico niente. Dici che se vuoi la lingua blu, fai un buffo a grande puffo, un bambino a grande puffo. Poi? Essendo le donne in maggior numero degli uomini, gli zoo sono stati presi d'assalto durante il 26 maggio, un giorno che entrerà nella storia. Non potevo destinare il proprio sperma alla banca popolare del seme. Migliaia di piccoli risparmiatori falegnami sono andati in rovina. La crisi ha colpito tutte le aziende del settore, tra cui Yomo, Nivea, Labello, Fattoria Robbiolosella e la banca stessa. Ma lo sapevate che sono stati... Ma l'evento più mirabolante mai visto in natura è stato il terrificante silenzio che ha avvolto il paese. Tutte le donne infatti avevano la bocca impegnata. Non hanno potuto prodotto alcun suono in contemporanea per 5 minuti. Per la prima volta in diretta nazionale è stato possibile udire, anche a centinaia di chilometri di distanza, il Cavaliere Massacrato, leader di Forza Italia. Veniva in bocca alla sua segretaria Emilio Fede, in netto anticipo rispetto alla media italiana, che si aggiornava intorno ai 4 minuti. 20 secondi più tardi sono venuti in contemporanea tutti gli uomini affetti da eiaculazione precoce, circa il 70% della popolazione maschile. Tale evento ha provocato un ingente terremoto e diversi tsunami in tutto il continente europeo, portando morte e distruzione ovunque. 3 minuti più tardi sono venuti i restanti. Incalcolabili danni all'economia e alle infrastrutture causati dalla paralisi totale del paese. In generale, senso di appagamento ha però permesso che nessuno notasse tale catastrofe. Uno a uno stanno venendo anche i ritardatari. Ah, ecco, anche io. Vladimir Luxuria non è ancora venuto. Vi terremo aggiornati. Ok, bene. Ma lo sapevi che praticamente è successo che un ambientalista ha gettato per sbaglio la plastica nel vetro e è stato incastrato per recuperarla? Pensavo si fosse suicidato. Aggiornamento, aggiornamento, aggiornamento dal 26 maggio. 30 vai, vai. Gennaio 2008. La gang musicale Tre Allegri Ragazzi Morti di Figa danno il cambio a Rosy Bindi nella mungitura di Vladimir Luxuria. Ok. Ma ricordate quella vicenda? Vladimiro non ha ancora eiaculato. I Tre Allegri Ragazzi Morti sono morti sul serio per soffocamento. Avete visto quell'esperimento fatto, non mi ricordo se a New York, che una ragazza ha camminato per 10 ore, per un'ora sulla via del centro e praticamente ha ricevuto più di 100, come dire, come si chiamano? Avance. Avance. Hanno fatto lo stesso esperimento. Molestie, non mi veniva proprio perché... Praticamente è stato fatto lo stesso esperimento a Milano. Una ragazza ha camminato per 10 ore per le vie del centro e le sono venute le vesciche ai piedi. Mo, perché ridete così tanto? Cam, il mondo del pompino. Ci sono come pise cose, porco Giuda. Su Wikipedia. Su Wikipedia. Non sono tanto convinto. Salvini cammina 10 ore per Napoli. Ah sì, l'avevo visto. Marco, stavi dicendo, scusa, passante. Stavi dicendo, vieni, vieni. E vieni, vieni. E diceva che io ne ho veduto uno, che c'era questa coppia di comici che ha fatto questo esperimento socialmente utile di Salvini cammina 10 ore per Napoli. E allora ci stava uno dei comici con sto mascherone di Salvini addosso, grande, che faceva proprio schifo. E i napoletani si sa che sono comunque un popolo molto vorace e verace, e quindi hanno detto un sacco di cose belle. A me è piaciuto un pescivendolo che a un certo punto gli ha detto: "Oh, è arrivato fratello cazzo." E poi che sarebbe il coglione destro o sinistro? Non lo so, c'è con Marecò che è napoletana. E poi gli hanno detto altre tipo te ne corn e tante cose. Guardatevelo. 40 insulti 10 minuti. Penso che abbia superato il record della ragazza che girava per New York. Sì, è volato pure tipo capocchio oppure paro pesce paro. Signora Pina, perché ride? Vuole farci ridere anche noi. Ci facci ridere signora Pina. Un momento, finisco di leggere e poi vi commento questa cosa. Sì, va bene, signora Vina. Signora Vina stava piangendo. Ma a proposito di Salvini, praticamente gli hanno chiesto se lui vuole diventare il nuovo leader del centrodestra e lui dice che ci penserà da lunedì. Tutte le cose si dicono lunedì, la dieta, anche perché Salvini... Allora, diciamocela tutta, non è che stai benissimo, ti abbiamo visto nudo, però un poco di panzicella. Mamma sarà mia. La polenta. Che poi quella foto, mamma mia, com'è schifosa, brutta. Pelosa. Ma mandiamo un pezzo? Sì. Signora Pina, mandi un pezzo. Mandi un pezzo a proposito di Salvini? Amico? Niente, abbiamo perso. Vuoi sapere il nome del liquido che esce a voi maschietti? Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua. Allora, questo deve essere un gran pezzo, al giudicare, diciamo, dagli artisti che l'hanno prodotto. Vai. Buonasera dallo stadio olimpico di Libertopoli. Come potete vedere il pallone è al centro del campo perché sta per iniziare la finalissima della Coppa delle Coppole, la finale più attesa tra le due squadre pronosticate alla vigilia, ovvero i colletti bianchi e i colletti sudati. A dirigere la partita un manipolo di arbitri in divisa nera armati fino ai denti. We'll Ma siamo rientrati, ci siamo, ciao amici, siamo di nuovo qui. Comunque io ci tenevo a precisare che a noi non interessa fare rivoluzioni. Ma che vuoi fare? Ambrogio, ho voglia di qualcosa di buono, ma non ho proprio fame. Paris Hilton su sperma. Il lato trash di Ciotia dall'etere. Noi vogliamo solo fare la ciotia. Allora, tra poco chiudiamo. Ricordiamo anche perché si è fatta una certa. Sì. Sono le tagliatelle di nonna Pina. È un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde con lo sperma. No. E abbiamo il nostro lato culinario di oggi, dove presentiamo un piatto che si chiama bucacche, che sarebbe piatto a base di sperma preferito da giovani volenterose. Io non lo so l'inglese. Volenterose nipponiche, ove esse stesse sono il piatto, in quanto i nidenatori maschi non sono mai mancati. Facendolo essiccare, la pietanza sul piatto si può ottenere una conserva per momenti meno fortunati. Esiste anche la versione ermafrodita, che non è necessità di maschi. Viene eseguito dalle lumache e dallo struzzo di mare. Ah, buono a sapersi. Ottimo, quindi come avrete ben capito, a fine puntata l'argomento di oggi era lo sperma. Sull'organismo femminile, genere seguenti comprovati effetti positivi. Riportiamo qui di seguito qualche esempio. Lo sperma, se ingerito, rigiovanisce, fa crescere le tette, proprio come la schiuma della birra, rassoda il seno e l'addome se spalmato sopra, elimina qualsiasi malattia dell'apparato genitale, porta un sensibile e duraturo miglioramento dell'umore, snellisce i fianchi. Se applicato sulla cute, fa sparire le rughe, fa scomparire definitivamente l'acne, fa scomparire eventuali antiestetiche cicatrici. Se spalmato con il palmo della mano è abbronzante, se invece si preferisce una pelle nivea va spalmato con il dorso. Quindi mi raccomando come lo spalmate, mi raccomando. Okay. Quindi se lo fate essiccare insieme a vostro marito che vi vuole lasciare, vi rimarrà attaccato e non se ne potrà andare. Se assunto per via anale, scolpisce i glutei, elimina la cellulite, tonifica i muscoli delle gambe, aumenta il piacere sessuale. Se assunto per via vaginale, purtroppo è l'unica controindicazione dello sperma. E perché i dermatologi? È un dispositivo di classe C, leggermente delle potenze. Perché i dermatologi non per l'acne, per esempio, per la cellulite, non consiglia lo sperma? Perché è tutta una lobby dell'industria delle farmaceutica, perché sennò poi come vendono i loro prodotti? Per esempio, no, tornando sul vaccino antinfluenzale, la Novartis ha fatto questo vaccino 10 anni fa, ok? Come ben tutti sappiamo, dopo dieci anni, i brevetti sui medicinali decadono e si possono fare i generici di quel farmaco. Allora che ha fatto la Novartis? Ha fatto un vaccino del vaccino, in modo che adesso il vaccino lo puoi fare anche generico, ma il vaccino del vaccino devi comprare Novartis. Ah, chissà che ropita che ne pensa di queste rimedi naturali. Non sono assolutamente d'accordo con i vaccini preveschi. No, tipo lo sperma come usato a livello farmaceutico. Guarda, non so, perché cioè comunque sono un po' combattuta, perché io da un certo punto di vista sono per i rimedi naturali, però dall'altro punto di vista sono anche per la non uccisione di quei poveri piccoli insettini che si trovano all'interno del sudderma, del seme maschile. Ma a proposito di questo, ricordiamo anche l'effetto benefico sui capelli, che è un gel naturale e duraturo. È un gel naturale duraturo che fa addrizzare anche i capelli di un metro. Alla tutti pazzi per Mary. Ricordiamo che non va somministrato sotto i 13 anni, che può avere effetti collaterali anche gravi danze. Leggere attentamente il foglietto illustrativo che è posto nello scroto dell'uomo. Okay. Più lo lecchi, più escono informazioni. Ok. Non avevo mai notato questa cosa. Ma da che rapita volevo far volevo trasmettere questa mia, insomma, questo mio pensiero. Praticamente sappiamo che lo sperma maschile nella vagina, tra i milioni e milioni di spermatozoi, tra i mille spermatozoi che entrano, solo uno giunge alla meta e gli altri muoiono. Quindi la vagina non ha un effetto. No, perché io comunque credo molto nell'evoluzionismo darwiniano e nella lotta per il per la sopravvivenza, quindi credo che sia del tutto normale che ci siano alcuni che riescono a raggiungere e altri muoiono. E altri muoiono, purtroppo questo in perché realtà... la vagina è secerne un muco che spermicida, sì. Oh mio Dio, quindi questo vuol dire che tendenzialmente ogni donna è un killer. Sì. Oh mio Dio, bisogna arrivare a questo. E poi si parla del femminicidio. Vabbè. Amarsi ancora, amare senza tempo. Tempo inteso Fazzoletti. Ah, ok. Ricordiamo che è in vendita sul nostro sito internet www.seghepombini.it. Farsi fare una sega in macchina pur non avendo Fazzoletti, che potete comprare, è un importante manuale di sopravvivenza per quando dovrei fare queste cose. Farsi fare una sega. I più fortunati si ritrovano nella condizione di dover spronare sfacciatamente la propria partner. Consigliamo di seguito diversi tipi di approccio. Scegli tu quello che già ti dice. Metodo 1. Consiste nel tirare fuori il proprio arnese e metterlo nelle mani di lei. Occorre agire con risolutezza e non ancle ad evitare di perdere troppo tempo. Impegnare più di 15 secondi in questa operazione è sintomo di inettitudine. Rapido ed efficace, lei potrebbe mettersi a piangere e scappare via. Secondo metodo, sporgersi oppure verso di lei tenendole la mano e indicare le stelle, dicendo cose del tipo: guarda cara, la costellazione del Capricorno, e intanto, in modo del tutto casuale, portare la sua mano nelle mutande. Questo è un metodo molto romantico ed è importante che il tutto avvenga in modo apparentemente casuale. È altresì importante non confondere le costellazioni del Capricorno e quelle dell'Acquario. Come pro abbiamo arrivare all'orgasmo mentre si ripassano le nozioni di astronomia, possibile reazione aspettata da parte di lei: prendi i soldi che ho nella borsa ma non stuprarmi, per favore. Mi meriti solo questa gran pungia di me. Scusate, cosa stava accadendo? Mi ero un attimo assopita su questo ultimo discorso circa lo sperma. Ragazzi, a proposito di sperma ucciso dal muco vaginale, ma a proposito di espulsioni, avete visto cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, sì, in questi giorni? Il bambino che Peppe 5 Stelle si sta auto... Si sta spurgando da solo. Ah, che bello. Quindi insomma è arrivato alla sintesi del Movimento 5 Stelle. Sì, stiamo eliminando, quindi finalmente ci avremo, cioè volevo dire, arriverà al punto in cui il Movimento 5 Stelle potrebbe non esistere. Sì. Chissà la signora Pina che ne pensa del Movimento 5 Stelle. Ha votato il Movimento 5 Stelle lei? Dice, te getto a rotto che io non ne ho votato. È un voto a sì, cazzi e pisciature. E cosa ne pensa del Movimento 5 Stelle, appunto? 5 Stelle, 5 Stelle strisce, sempre tutte le stesse cose. Chi si è là, hanno fatto una pochi casino e mo' non hanno fatto un cazzo alla fine. Chi lo si è seccato, se rotto un cazzo e tu che è stanchino, un povero, non ha fatto un cazzo in vita sua. E mo' è stanchino. E chi se la sindrome di parlamentare, non fanno un cazzo su stanchi. Signora Micuzza, lei che si intende di CONI, non ha votato il Movimento 5 Stelle? Eh? Non ha votato il Movimento 5 Stelle, lei che si intende di CONI, gelato. Che mi intende di CONI, gelato? Finora stava parlando di... La masturbazione non è un peccato! È un se stesso con qualcuno che amo, me stesso! Cicciopu, questo è il non senso. È una mano santa! Questo è il non senso, Cicciopu. Chi fa da sé fa per tre! Di conseguenza io faccio orge tutti i giorni! E poi? il sesso è come giocare a carte da soli. Io direi che insomma questa puntata è arrivata alla fine, alla frutta anche per stasera. Diciamo che è venuta questa è giunta. È giunta. Con una sega ho generato mio figlio. Chi è? Dio. No. Non lo so. Un indizio? Con una sega ho generato mio figlio. Pinocchio. Pinocchio è il figlio. Geppetto. Geppetto. Bene, vogliamo ricordare gli appuntamenti che ci riguardano, ragazzi? Sì, ricordiamo che il 12 ci troveremo tutti in aula P2 occupata. Noi non vogliamo fare rivoluzione. No, no, assolutamente no. Avremmo diciamo che quelli che occupano le aule non vogliono, non tutti hanno come fine ultimo la rivoluzione. No, magari una rivoluzione. Che tipo di rivoluzione hanno in mente quelli che occupano le aule? Che tipo di rivoluzione? Forse una rivoluzione culturale. No, secondo me è più una rivoluzione fisica. Che anche senso? Perché non capisco. È un senso, uno senso. Nel senso che io comunque avendo occupato un luogo occupato che non nomino, perché insomma per difendere la privacy dal momento in cui comunque anche se sembra una web radio indipendente, è chiaro che potrebbe ascoltarci qualcuno e potrebbe sapere dove si trova il nostro luogo occupato. No, certo. Però un posto per fare una rivoluzione non è la rivoluzione intesa, a mio avviso, come questa cosa ampia e da sfottere. Anche occupare un luogo per ridarlo a chi appartiene in origine, ad esempio agli studenti, nel caso delle aule universitarie, è un'occupazione che fa bene. Non è un'occupazione di un'aula semplicemente per fare delle feste e vendere delle bellissime spillette e come cazzo si chiamano, e adesivi. Non è vendere vino, non è fare festa, è viverlo ogni giorno. Sì, ricordiamo che in aula si fanno determinate, in aula P2 si fanno determinate, come dire, eventi, si fanno determinati incontri anche culturali, come la nostra web radio. A proposito del... Mi ha chiuso... Merda, Ciccio Pupo, ha chiuso il microfono ad Andrea. Merda, mi ha chiuso. Che cattiveria, comunque. Detto ciò... prima che dicevo mi chiudesse il microfono, stavo per dire che il 12 dicembre in aula P2 occupata si terrà il festival, primo festival di Fuori Onda Radio. E insomma, ragazzi, tenetevi pronti perché si esibiranno tre gruppi di ragazzi emergenti, tra cui la nostra Flavia. Sì, che insieme salutiamo. Ciao Flavia. Insieme al fratello Peppe. Tagliati dread. Ha tagliato alcuni dread. Poi si esibiranno i Bequadro. Sì, Bequadro Rock from Petrona. Ed infine i Bella Spi, i Sex and Helvetic System. Bella come Spi. Lo dici bene, me. Sì, yeah. Bella Spi. Che insomma ognuno di questi gruppi ha il proprio e si esibisce con il proprio genere musicale, che è molto eterogeneo nella serata, molto diversi da loro. E ricordiamo che questo festival non è per fare la rivoluzione come si fa da altre parti, ma è per promuovere la nostra web radio e per promuovere i gruppi emergenti delle... appunto, i suicidati. Yes. I suicidati. Detto ciò, insomma, possiamo... E ricordiamo alle 9:30, le 21:30/22 partirà il festival. And the kiss. Insomma, detto sempre ciò, in aula più occupata, penso che possiamo salutare i nostri chat ascoltatori e darci sì, i nostri 15 chat ascoltatori che stasera ci hanno tenuto compagnia. Salutiamo il passante Marco. Al culo. E detto ciò, ci ritroviamo sempre qui mercoledì prossimo. Sì. Io sono sfasata, vivo un anno indietro. Salutiamo la signora Pina, la signora Micuzza. Ciao. Arrivederci, signori. Salutiamo Flavietta. Ciao Flavia. Salutiamo anche Antonietta. Antonietta. Che è da un po' di tempo che non ci fa compagnia. E niente. Ciao Ciccio. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Ciao Mary. Ci vediamo venerdì alla festa di Fuori Onda Radio.